Europa 24. Ben ritrovati da Laura Bettini per questo appuntamento con Europa 24. Parliamo oggi di come stimolare l'attenzione su grandi temi come l'efficienza e il risparmio energetico. In Europa anni fa fu lanciato il programma IIE, cioè Intelligent Energy for Europe, programma che ora è confluito nel famoso programma Horizon 2020, ma ovviamente i progetti finanziati negli anni scorsi sono ancora attivi. E tra questi c'è You Are a Smart Consumer, che mira a formare europei più consapevoli sui consumi energetici attraverso i contatori intelligenti, ovvero quelli in grado di fornirci non solo i consumi finali, ma anche le indicazioni ora per ora o di malfunzionamento e guasto. Il partner italiano del progetto è ICEFOR, e la referente project manager è Marina Varvesi, che ci fa scoprire anche un'eccellenza italiana. Gli smart consumer è focalizzato a promuovere gli smart meter, quindi soprattutto i servizi degli smart meter, sia interfacciandoci sia con gli operatori energetici che con i consumatori. Essendo un progetto europeo, porterà avanti tutte queste attività nei diversi paesi, e la difficoltà è che proprio lo sviluppo degli smart meter nei vari paesi europei è oggigiorno a livelli differenti, dove l'Italia fa da apripista nell'implementazione ovviamente degli smart meter. Perché l'Italia apre pista? E perché avendo noi installato oggi quasi il 99% degli smart meter, ci troviamo in una posizione molto avanti rispetto agli altri partner. Io quando mi siedo ai project meeting, parlando con i vari partner, vedo che effettivamente le situazioni sono molto diverse e ci sono paesi in cui si sta ancora parlando di quello che sarà il piano di implementazione, il rollout plan degli smart meter. Partecipano al progetto anche agenzie governative? Sì, il progetto vede un partenariato molto ricco. Il coordinatore spagnolo è una società di consulenza energetica, ma ci sono appunto anche agenzie governative, agenzie energetiche nazionali come per esempio quella della Polonia, associazioni di consumatori, agenzie di formazione, quindi è un progetto che vede diversi attori, non solo provenienti da diversi paesi europei proprio per rispettare la dimensione europea dei progetti, ma anche che vede diversi attori proprio per poter realizzare quelli che sono gli obiettivi del progetto. Allora, le chiedo di portare qualche esempio di quello che si sta facendo. USmart ha un piano che si sviluppa nel corso di 3 anni, quindi è iniziato nel 2014 e terminerà nel 2017. Un piano di lavoro molto complesso. Il primo anno è stato soprattutto focalizzato su quello che è lo studio del mercato. Quello che è emerso in quasi tutti i paesi è che il consumatore su tematiche legate all'efficienza energetica, in particolare sugli smart meter, non è molto consapevole, considera la bolletta dell'energia come una tassa da pagare e considera lo smart meter come uno strumento per permettere la bolletta, ma senza servizi per effettivamente diminuire quelli che sono i consumi, quindi come uno strumento per aumentare l'efficienza energetica. Quello che si andrà a fare nei prossimi 2 anni di progetto è una campagna informativa proprio per aumentare la sensibilità dei consumatori sull'efficienza energetica e sugli smart meter, e di andare a collaborare con progetti pilota per testare nuovi servizi e vedere effettivamente di creare e lanciare sul mercato dei servizi innovativi esattamente in risposta a quelle che sono le esigenze dei consumatori. Quindi insomma, se possiamo dire che in Italia abbiamo un buon livello per quel che riguarda, anzi un ottimo livello per quel che riguarda la diffusione del contatore intelligente, però anche noi italiani non siamo ancora dei consumatori intelligenti, abbiamo bisogno di essere un po' instradati. Verissimo, bisogna lavorare sull'aumento di consapevolezza del consumatore e renderlo proprio un consumatore smart, ed ecco lì il titolo del progetto, You Are a Smart Consumer. In attesa di imparare a decifrare la lingua che parlano i nostri contatori per trarne il maggior beneficio possibile in termini di risparmio economico e della risorsa energetica, ci fermiamo, ringraziamo la nostra ospite e ci diamo appuntamento alla prossima edizione di Europa 24. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.